la famosissima barbottina, e la creta, quella mischiata con altri materiali. Tu pista barbottina e la metti nella cazzarola. La famosissima cazzarola. Non conosci manca la cazzarola? Ed è famosissima. Tu pista cazzarola e la metti poi, cioè metti sopra la barbottina. Quanto si è formato uno strato di 10, 12, 14 mm significa che il pezzo è pronto per essere portato nell'essiccatoio. Se no il pezzo si cuccia, si smoscia, si spascia, diciamo così, no? Ecco, allora tu pisso pezzo lo porti nell'essiccatoio e poi ce lo tieni per un po' di tempo. Dopo lo porti dentro forno, lì do forno ce lo tieni per 24-48 ore, una volta. Poi ce lo riporti un'altra volta, per altre 24 ore. Oh, allora diciamo che o pezzo è quasi finito, te devi ricordare di guardare se ci stanno i puntini neri, i ciafregni, i cosetti, prima di portarlo dentro o magazzino. A quei tempi bisognava essere artisti per fare questo lavoro. Adesso si è della gente che sta lì. 50 lire, spettacolo sulle fabbriche senza padrone, di e con Ferdinando Vaselli, regia Valentina Esposito. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Il matematico Pier Giorgio Di Freddi sul progetto Il grande racconto dell'astronomia, che vedrà il terzo capitolo dedicato ad Einstein in scena a Roma, al Teatro Vittoria, dal 28 marzo al 2 aprile 2023. Ben trovato. Grazie dell'invito. Buongiorno a voi. Ci parli di questo progetto? Si tratta di raccontare la storia dell'astronomia, naturalmente a grandi tappe, parlando dei grandi nomi che l'hanno formata. Ce ne sarebbero potuti aggiungere altri, naturalmente Copernico, prima di lui Tolomeo, dopo di lui Keplero e così via. Però mi sembra che questi Galileo, Newton e Einstein siano un po' le tre vette, no? Un po' come l'Himalaya dell'argomento. E tra l'altro sono anche persone che si prestano a raccontare non soltanto i risultati dell'astronomia, ma più in generale sono stati i più grandi scienziati probabilmente che sono esistiti, soprattutto nella modernità, e hanno fatto tantissime altre cose. La loro vita tra l'altro è stata anche molto interessante, pensiamo per esempio ai processi che Galileo ha dovuto subire da parte dell'Inquisizione, al modo in cui Newton viveva come se fosse un monaco ritirato dal mondo e poi però è diventato il governatore della Banca d'Inghilterra, come diremmo in termini moderni. Einstein, che è stato considerato l'uomo del secolo addirittura dalla rivista Time nel 2000, e quindi appunto si potrà vedere non soltanto l'astronomia, quindi parleremo ovviamente dei pianeti, delle stelle, della gravitazione e così via, ma anche come alcuni uomini sono riusciti col loro pensiero ad andare molto lontano dalla Terra, naturalmente. Come è pensato ogni singolo appuntamento? Io ho scritto addirittura due libri, due biografie, una di Galileo che si chiama Hai vinto Galileo, usando naturalmente una frase che era stata usata storicamente in un altro contesto, e ho scritto anche una biografia di Newton che si chiamava Sulle spalle di un gigante, perché lui usò quell'espressione che non era sua, ma per far capire come procede la scienza, anche uno come Newton diceva si è seduto sulle spalle di altri giganti. Di Einstein non ho mai fatto una biografia, benché mi piacerebbe prima o poi finire questa ideale trilogia, e quindi quello che faccio ogni volta che appunto scrivo biografie di questo genere è anzitutto leggere gli articoli, ma soprattutto i libri che queste persone hanno scritto, e cercare di entrare un po' nel loro cervello, perché è interessante capire come hanno pensato le idee che poi sono diventate parte del nostro patrimonio, del nostro background culturale, e naturalmente col passare dei tempi cambia anche il modo di pensare delle persone. attenzione. Galileo era soprattutto un fisico sperimentale, cioè faceva un sacco di esperimenti e poi cercava di dedurre da quello che vedeva delle leggi, anche perché per lui la matematica era un linguaggio abbastanza ancora rudimentale, c'era la geometria all'epoca, ma non c'erano gli strumenti che poi si sarebbero usati in seguito. Newton è l'esatto contrario, era uno che faceva esperimenti ma di tutt'altra natura, era un alchimista, potremmo chiamarlo così, nel senso proprio che ha speso quasi tutta la sua vita a fare esperimenti di alchimia e a scrivere libri e articoli di teologia, ma nei pochi anni in cui si è dedicato a cose serie, cioè appunto quelle per cui oggi viene ricordato, in realtà era quello che invece chiameremmo un fisico teorico. E allora in quel caso poi gli strumenti di matematica, che non c'erano appunto ancora ai tempi di Galileo, poco prima, perché tra l'altro Newton è nato lo stesso anno in cui è morto Galileo, c'è cioè una specie di passaggio ideale di testimone da uno all'altro, che bene dicevo, Newton si è inventato in parte un nuovo strumento che è quello che si chiama l'analisi infinitesimale, il calcolo integrale delle derivate, che oggi poi tra l'altro studiamo tutti a scuola per tantissimi motivi, perché è lo strumento più versatile che i matematici abbiano mai inventato nel corso della loro storia. E Einstein invece è ancora diverso, perché lo strumento di Newton naturalmente non era che un primo passo verso una generalizzazione. Einstein ha messo in realtà insieme i due strumenti che usavano Galileo e Newton, cioè la geometria da una parte e l'analisi dall'altra, con quello che si chiama il calcolo tensoriale, che non ha inventato lui in questo caso a differenza di Newton, che però ha saputo usare per la prima volta perché era uno strumento nuovissimo che conoscevano pochi matematici, e lui invece ha dovuto usarlo proprio per i suoi scopi. Quindi bisogna entrare nella loro mentalità come se si andasse a parlare con gente di popolazioni diverse, che parlano lingue diverse, hanno costumi e abitudini diverse. Bisogna entrare nei loro panni, e questa è la sfida per me. Per il pubblico spero che possa essere una cosa interessante appunto non vedere questi ritratti. Ovviamente sono ritratti a pennellate larghe, diciamo, perché queste persone, ciascuna di queste, si potrebbe dedicare loro naturalmente non solo l'intero ciclo, ma come ho detto libri, e poi è stato fatto tra l'altro. Su tutti e tre sono state scritte innumerevoli biografie, non parliamo degli articoli, no? Quindi è una specie di introduzione, un tentativo di invogliare la gente poi a seguire l'argomento e magari andarsi a informare e leggere altro. Ecco, proprio a questo proposito, come dialogano con il presente questi tre scienziati? Naturalmente sono uno dietro l'altro, perché poi la scienza procede per accumulo, a differenza della filosofia o della letteratura in cui i predecessori vengono spesso buttati via. I filosofi fanno così, no? Cioè ogni filosofo si diceva ha ragione quando critica i suoi predecessori dicendo che non hanno capito niente, poi ha torto quando propone lui e verrà poi criticato dai suoi successori, no? La scienza non è così, la scienza appunto procede per accumulazione, e quindi quello che ha fatto Galileo non è che viene buttato via quando arriva Newton, e nemmeno come molti pensano invece quando arriva Einstein, poi si butta invece via di Newton quando ci fu quel famoso esperimento che si fece nel 1919 in Sud America con un'eclisse di sole che confermò per la prima volta che la teoria della relatività generale di Einstein era corretta, che Einstein aveva ragione. I giornali appunto scrissero, soprattutto quelli in Inghilterra dove Newton era l'astro rimasto per due o tre secoli, no? Fino all'arrivo appunto di Einstein, i titoli erano Newton buttato giù dal piedestallo. Beh, non è affatto così, perché la teoria di Newton continua a funzionare perfettamente nell'ambito in cui è stata pensata, e quella di Einstein è una sua estensione. In linguaggio tecnico diciamo che la teoria di Newton è una prima approssimazione a quella di Einstein, no? Quindi sicuramente tutti e tre sono le basi una dietro l'altra della scienza moderna. Ma uno può pensare, sì vabbè, ma l'astronomia poi cosa ce ne importa, guardiamo le stelle, no? E non andiamo molto lontano. Ma per esempio, tanto per fare un esempio di applicazione, noi tutti usiamo il GPS oggi, usiamo il telefono fuori con i navigatori delle automobili e così via. Ebbene, questi GPS non funzionerebbero se non si facessero le correzioni relativistiche di Einstein. Se si usasse solo la meccanica newtoniana ci sarebbero degli errori enormi di parecchie decine di metri per rilevare appunto i segnali dei satelliti, e quindi ovviamente quando noi giriamo con l'automobile, se ci sono errori di decine di metri, andiamo a prendere una strada invece che l'altra, no? Non funzionerebbero. Quindi anche nella vita quotidiana questi studi, che potrebbero sembrare particolare, eterei per l'appunto nel senso letterale della parola, che guardano all'insù, guardano alle stelle, poi hanno delle ricadute pratiche. Quindi sicuramente noi viviamo grazie ad Einstein e alla sua fisica, non solo, perché poi l'influsso di Einstein maggiore è quello nella meccanica quantistica. Tutti gli aggeggi elettronici che noi usiamo, dai cellulari ai compact disc eccetera, sono ovviamente legati più alla meccanica quantistica che non alla relatività generale. Einstein è stato uno dei padri della meccanica quantistica, non l'unico, e anzi nella seconda parte della sua vita è stato praticamente un acerrimo nemico della meccanica quantistica, non gli piacevano i fondamenti filosofici di quella teoria. Ma in questa serie non parleremo della parte della meccanica quantistica, che ovviamente è una cosa molto diversa, e ci concentreremo di più sulle stelle, per l'appunto, anche perché sono quello che l'uomo ha guardato fin dall'antichità. Una volta, quando non c'erano le televisioni, non c'erano i film, non c'erano le discoteche, cosa faceva la gente di sera? E ovviamente, a parte l'attività che permette alla specie di andare avanti, altrimenti non saremmo qui a parlarne, no? Però quella non è che si può fare tutte le sere, no? Il resto era uscire, guardare le stelle, vedere che alcune di queste si muovono in maniera strana, e infatti i greci le chiamavano erranti, no? Che vanno un po' a casaccio nel cielo, capire come mai si muovono così, cercare di immaginarsi qual è la struttura dell'universo, che all'epoca era solo il sistema solare, ovviamente oggi abbiamo una visione molto più ampia di quello che è l'universo, no? E però forse appunto l'astronomia ha questo fascino primordiale, è quello che tutti vediamo quando alziamo gli occhi al cielo, e in una notte appunto in cui ci sono le stelle e non ci sono le nuvole. Un saluto e un ringraziamento al matematico Pier Giorgio Odifreddi. Grazie a voi e buone serate. Il matematico Pier Giorgio Odifreddi sul progetto Il grande racconto dell'astronomia, che vedrà il terzo capitolo dedicato ad Einstein in scena a Roma, al Teatro Vittoria, dal 28 marzo al 2 aprile 2023. Con Silvano Falocco, autore del libro Canzoniere coloniale, le 100 canzoni che non vorremmo mai aver cantato, una presentazione a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 19.30. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Raccontiamo questa nuova avventura editoriale, di nuovo sul colonialismo. Eh sì, è un canzoniere nel senso proprio una raccolta dei testi di cento, delle centinaia e centinaia di canzoni prodotte a metà degli anni 30 per accompagnare e favorire l'occupazione coloniale italiana. Non sono solo canzoni che vengono dal fascismo, ci sono canzoni che iniziano con la guerra italo-turca e quindi l'invasione di quella che poi sarà la Libia, canzoni che hanno costruito lo stereotipo razziale italiano tuttora. Fa impressione intanto il numero di canzoni, sembra l'ennesima arma del regime, oltre ai cinegiornali anche quella della musica leggera. Eh sì, è sottovalutato il ruolo della propaganda di massa, quindi dell'uso dei mass media associati al colonialismo, è molto sottovalutato perché l'impresa discografica era agli albori. Si è sempre pensato che in fondo gli italiani avessero un colonialismo straccione, cioè non accompagnato da un apparato politico, militare e propagandistico adeguato, e invece andando a scoprire area per area gli strumenti della propaganda si vede che sono strumenti validi sempre, e nel caso dell'occupazione dell'Africa orientale italiana l'apparato musicale messo in campo sia con il teatro d'opera ma soprattutto con le canzoni di massa associate ad un uso della radio diffusivo anche tramite radio rurale, la radio diffusa nelle piazze, le canzoni cantate dalle persone, l'opera di propaganda fu veramente sconvolgente. Ecco, come era organizzata la propaganda musicale materialmente? Bisogna considerare che la prima trasmissione radio è del 1924, ma è dal 28 che nasce l'EIAR, considerato come un mezzo di comunicazione di massa dal regime, e bisogna considerare che in quell'epoca gli apparecchi radio erano ancora bassi. Occorre pensare che all'inizio dell'utilizzo della radio erano circa 30.000, nel 37 erano quasi 900.000, e su questo l'uso dello strumento che in quel caso era uno strumento di modernità, ovviamente, ma l'uso di quello strumento associato appunto al colonialismo è un uso che ne ha permesso di fatto la diffusione. La radio costava ancora tantissimo, proprio gli apparecchi radio, quindi vi fu un'incentivazione mediante Radio Rurale della possibilità di avere degli apparecchi in zone rurali, nelle scuole dove erano gli agricoltori, in modo tale da facilitarli nell'acquisto. Poi l'uso delle canzoni invece parte, diciamo, fu accompagnato da quella servitù volontaria che succede sempre nei momenti di consenso di un regime autoritario come il fascismo, ovvero cantanti importanti che autonomamente si mettevano nelle condizioni di propagandare il colonialismo. Quindi strumenti da una parte di tipo tecnologico, dall'altra invece di carattere artistico, che hanno condiviso quell'obiettivo e quel fenomeno che veramente, leggendolo tutto assieme, fa veramente impressione. Quali erano i principali concetti veicolati? Sono concetti che noi troviamo ancora ora. Il primo e l'unico che non troviamo ancora oggi è il senso di rivalsa, di vendetta per le sconfitte, quelle di Dogali e quelle di Adua, che venivano richiamate dal fascismo per la necessità di lavare il sangue allora versato, oppure quel senso di rivalsa perché l'esercito italiano fu il primo sconfitto da un esercito africano. Quel tema probabilmente è un tema che ha un ruolo storico, quello del senso di rivalsa per la sconfitta di Adua, ma altri di questi temi, immagino la costruzione del nemico, la disumanizzazione che viene fatta costantemente, la ridicolizzazione degli africani, del Negus, l'esaltazione dell'eroismo, l'idea che si liberassero dalla schiavitù le donne, che è un tema che ancora oggi, quando ci sono le guerre e l'occupazione coloniale, ancora oggi è fortemente utilizzato, oppure il dileggio con l'uso di melodie popolari come gli stornelli, come la canzone napoletana, che servivano appunto a dileggiare in particolare il Negus, oppure ancora la costruzione di un immaginario esotico femminile che quasi sempre era in attesa del liberatore ed era ben contento che degli occupanti italiani venissero a salvare queste donne che erano, come si dice in una canzone, brutte, nere, sbrendolate, di bitume tutte impeciate, perché tutti i testi sono razzisti in un modo che fa veramente paura. Esiste traccia di questo materiale oggi? Che tipo di ricerca è stata la tua? Innanzitutto la prima ricerca è stata per costruire questo canzoniere, ovvero vedere quali delle canzoni fossero maggiormente cantate, e questo mi è stato possibile andando a vedere da una parte quei repertori che sono stati già raccolti e collezionati nel corso del primo fascismo sui dischi, dall'altra appunto le canzoni che venivano pubblicate sul Radio Corriere, oppure quelle che sono rimaste nella memoria delle stesse persone colonizzate che magari li cantavano non associando ancora il testo, perché le parole erano sconosciute, il significato o i sottintesi delle parole erano sconosciuti, venivano cantate anche dalle stesse persone colonizzate. Poi questo repertorio attualmente è reperibile in gran parte sui siti discografici dell'Archivio di Stato, quindi appunto la canzone italiana è possibile andare a ricavare quali sono queste canzoni, le si possono sentire. Per molti testi invece sono state direttamente bobinate, perché di alcuni di questi testi non c'è da nessuna parte traccia, e si può capire perché sono testi particolarmente feroci, dove si fa ad esempio una esaltazione dell'uso degli ascia. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sul tuo libro? La diffusione viene fatta essenzialmente nei momenti di presentazione, oppure inviato a chi lo richiedesse, si può richiedere direttamente su Roma Coloniale, che in questo caso non è la casa editrice ma che ha accompagnato lo sviluppo di questo progetto, ma si possono chiedere direttamente a me, ma sarebbe ancora meglio essere presenti all'incontro di mercoledì sera, perché molte di queste canzoni saranno una scoperta per molte persone. Il libro Canzoniere Coloniale, le 100 canzoni che non vorremmo mai aver cantato, una presentazione a Roma, ad Off, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 19:30. Un saluto e un ringraziamento all'autore Silvano Falocco. A presto! Arrivederci! con Francesco Romagnoli, autore del libro Babaie. Ben trovato. Ben trovati a voi, buongiorno a tutti. Che cos'è questo libro? Una storia incredibile, perché è la storia di come è nato quello che io chiamo il più bel villaggio per bambini orfani del Corno d'Africa, forse anche di più. È la mia storia. Nel 2000 ho lasciato quello che facevo qua, lavoravo in uno studio commercialista di famiglia e ho deciso di dedicarmi ai bambini che non avevano nessuno nel Tigray, che è una regione che sta nel nord dell'Etiopia. E il libro racconta questi 20 anni e più trascorsi Tigray, a prendermi cura dei bambini e raccontare, ecco, la nascita del villaggio attraverso le storie di tutti i bambini e delle persone che lo hanno attraversato. Qual è stata la molla? Sicuramente la voglia di cambiare un po' la vita che facevo, della quale evidentemente non ero soddisfatto, anche se apparentemente sembrava che non mancasse nulla. E poi è stata l'incontro con una bambina che è stata la prima dei tutti i bambini, che oggi sono più di 100, che sono, io dico, a tutti gli effetti i miei figli, perché sono legalmente affidati a me. Molti di loro hanno il mio cognome, perché non erano uno, erano bambini abbandonati, e quindi mi trovo oggi con una famiglia molto numerosa, sono più di 100, e l'incontro con la prima è stata la molla che ha fatto scattare tutto, che poi è la bimba che è in copertina. Dopo quell'incontro come ti sei mosso? Cos'è successo? Ho cercato di capire un po' quello che avrei potuto fare, perché chiaramente io sono arrivato giù senza esperienza, senza mezzi, e quindi ho dovuto cercare di capire come avrei potuto iniziare a fare quello che sognavo. Cioè, il mio sogno era costruire un villaggio per bambini che non avevano nessuno, e proprio in seguito all'incontro che avevo avuto con questa bambina mi sono reso conto di questo problema enorme degli orfani, che erano tantissimi per guerra, per malattie, per mille motivi. E però, insomma, è da lì a iniziare a programmare e a pianificare la costruzione di un villaggio, la strada è lunga, quindi ho cercato intanto di capire, ecco, che cosa avrei potuto fare muovendomi tra le persone, cercando di capire i bisogni, cercando di capire la strada che avrei potuto seguire. Poi in realtà alle volte io dico sempre, le cose sono più difficili a pensarle che a farle, perché quando poi ci mettiamo a farle ci rendiamo conto che abbiamo veramente capacità e possibilità infinite, e quindi ciò che sembrava impossibile alla fine man mano comincia a prendere forma, e così è stato per me. Insomma, ha cominciato a prendere forma il villaggio, che lavora ormai da più di 15 anni facendo tantissime cose, insomma, tante altre attività oltre all'ospitalità dei bambini. L'aiuto è arrivato da persone singole, anche da organizzazioni o anche da altri soggetti? L'aiuto è arrivato sempre da persone singole, è stata anche un po' una scelta nostra di non legarci a organizzazioni e niente, quindi abbiamo sempre avuto persone che hanno deciso di partecipare alla realizzazione di questo sogno, quindi ognuno ha contribuito come poteva con quello che aveva, però insomma il risultato oggi devo dire che è incredibile, ecco perché io dico che è una storia incredibile, perché è veramente iniziata dal nulla con nulla, e oggi quello che è stato fatto io lo trovo meraviglioso. Com'è il rapporto con le istituzioni? Le istituzioni ci appoggiano tantissimo, perché chiaramente gli risolviamo un problema enorme, perché noi ci prendiamo cura dei bambini che in genere vengono abbandonati per strada, che sono tantissimi, e ci sono molte ragazze giovani che si prostituiscono con i soldati o che hanno figli non voluti e quindi non sanno come badarci, non li vogliono tenere, quindi li buttano per strada. Chiaramente il governo non ha strutture pubbliche dove poter mettere i bambini, quindi il fatto che noi comunque ci facciamo carico di questi bambini e li cresciamo, li facciamo studiare, gli diamo un futuro, è chiaro che per loro è una grossa risorsa. Il governo chiaramente non può finanziare, spesso mi chiedono il governo aiuta, dico no, non aiuta, siamo noi ad aiutarli, quindi è chiaro che siamo molto ben visti e ben voluti. Poi cerchiamo, come dicevo prima, non di limitare l'aiuto solamente all'attività istituzionale nostra, che è quella dei bambini orfani, ma di fare tante altre cose. Quindi abbiamo fatto scuole nel tempo, abbiamo fatto strade, abbiamo fatto pozzi, abbiamo fatto centri ospedalieri, insomma sono state fatte tante tante cose. Quante persone lavorano oggi al villaggio e come è organizzato? Ci sono tante casette, io non volevo organizzare un villaggio che fosse proprio la classica struttura struttura dell'orfanatrofio perché non mi piaceva, quindi volevo garantire ai bambini una sorta di famiglia che era quella che non avevano, e quindi ho organizzato con tante casette all'interno delle quali ci sono dei bambini e una mami che si prende cura di loro. Chiaramente i bambini sono di età diverse, vanno da un anno fino ai 16, 17, 18, poi ci rimangono anche di più, e quindi si vengono a ricreare tanti nuclei familiari. Nel villaggio lavorano più di 60 persone tra guardiani, pulizie, mami, infermiere, cuoche, maestre, insomma è una struttura che, ospitando 100 bambini che, ripeto, vivono a tutti gli effetti lì perché non hanno altri posti fuori, quindi dormono, studiano, mangiano, fanno tutto lì da noi. È una struttura che è molto ben organizzata, ognuno ha i suoi compiti, andiamo avanti ormai da 20 anni, quindi ben rodata, un meccanismo che funziona benissimo, i bambini aiutano su tutto, quindi insomma è una grande famiglia, funziona come una grande famiglia. E una volta cresciuti c'è un programma per inserirli nella società? Io dico sempre facciamo quello che si fa in ogni famiglia, cioè in base alle capacità di ognuno cerchiamo di inserirli chiaramente nella vita sociale, nel mondo del lavoro, anche se chiaramente il mondo del lavoro è un parolone perché è molto complicato. C'è chi studia e chi riesce a fare l'università, e c'è chi invece non studia e cerchiamo di aprirgli una piccola attività, un lavoro, qualcuno rimane a lavorare nel villaggio lì da noi, insomma li seguiamo un po' come si fa ai figli in base a quello per cui sono portati. Chiaramente la situazione fuori è molto complicata in questo momento, soprattutto dove è finita una guerra che è durata più di 2 anni, è finita da pochissimo, quindi è saltato un po' tutto da questo punto di vista, perché le scuole sono chiuse da 3 anni, le università non sono potute andare, quindi tutti i bambini che vivono da me, ripeto, da 3 anni non vanno a scuola. Sembra che riaprano a settembre, però certo questo ha creato un gap notevole, perché bambini di 18 anni si trovano a dover ricominciare dal primo o secondo liceo dove si erano fermati 3 anni fa. Ma insomma, piano piano cerchiamo di rimettere a posto le cose. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Noi abbiamo un'associazione, ci sono io e la mia famiglia, si chiama James Non Morirà, c'è un sito internet che è www.jamesnonmorirà.it, c'è un profilo Facebook e Instagram, che per da poco abbiamo aperto anche i social. Il libro Baba Ye, un saluto e un ringraziamento all'autore Francesco Romagnoli. A presto! Un saluto a voi e grazie. Arrivederci a tutti. Con Elio Di Michele, curatore del volume I Granci della Marana, Irene Bernasconi e la Casa dei Bambini di Palidoro, una presentazione a Roma, alla Biblioteca Nazionale Centrale, giovedì 30 marzo 2023. Ben trovato. Grazie, grazie dell'invito. Che storia è questa? Questa è una storia straordinaria, sconosciutissima, anche a noi del posto. Io abito a Torre in Pietra, però il nostro posto, la nostra comunità è Torre in Pietra, Maccarese, Palidoro, Aranova, so, queste zone della campagna romana a circa 30 km dal centro di Roma, dove la vita nei tempi di Irene Bernasconi, 1915-1916, era durissima. E questa storia nasce da un diario poco conosciuto appunto anche da noi. Era stato pubblicato neppure integralmente nel 1997 in una rivista di settore dalla grande Giovanna Late, che è la più grande storica dell'igiene e dell'alfabetizzazione della campagna romana. E a me è capitato tramite mani amiche, e quando ho letto questo diario mi sono emozionato tantissimo e ho detto bisogna che venga conosciuto. Però io vorrei specificare una cosa, che questa è una storia di Palidoro, ma non è solo di Palidoro, cioè locale ma non è localistica, nel senso che chissà quante Irene o Ireni ci sono stati nella campagna romana a nord di Roma o a sud di Roma, nelle paludi pontine. E fa parte di tutto quel lavoro, quel laboratorio che sono state le scuole per i contadini dell'agro romano, a cui hanno partecipato nomi anche molto importanti: Angelo Celli, Sibilla Leramo, il grande Ettore Marchiafava, Giambattista Grassi, quindi malariologi, intellettuali e educatori, e soprattutto Alessandro Marcucci. Alessandro Marcucci, che è poco conosciuto, ma che è stato il direttore per molti anni delle scuole per i contadini, che venivano fatte nei posti più difficili: fienili, stalle, chiese, non c'erano scuole. E allora al posto delle scuole pubbliche si sono inventati questa cosa, siamo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, e il socialismo utopistico, umanitario, che ha dato una grande partecipazione a questa cosa. Che metodo educativo seguiva lei? Irene Bernasconi, lei era svizzera, si è formata in Svizzera a Losanna e a Ginevra e ha avuto come educatori per esempio Jean Piaget, che è uno dei massimi pedagogisti tra 800 e 900, e poi ha seguito anche altri corsi presso l'Unione Femminile di Milano e lì ha conosciuto il metodo Montessori e anche Maria Montessori. La famiglia che abita a Monteverde Vecchio, i nipoti, hanno donato al Museo della Scuola dell'Educazione di Roma, ex Magistero, e le trascrizioni delle lezioni che lei ha seguito a Milano. Quindi usava il metodo Montessori e questa, non abbiamo le prove assolute, però non abbiamo neppure le controprove, dovrebbe essere la prima scuola per bambini rurale, perché le prime scuole montessoriane, cioè le case per i bambini, sono state fondate a San Lorenzo, quartiere proletario e degradato, nel 1906. Questo è del 15 e quindi probabilmente... Quanti bambini e quanti bambini ha coinvolto il progetto? Allora, come bambini all'inizio erano una trentina, dai 2 anni e mezzo ai 7 anni, perché lei non si limitava a quella età canonica, cioè da 3 a 6 anni, perché poi la condizione era talmente grave che poi prendeva anche altri bambini. Alla fine questo percorso scolastico dura dal 6 dicembre fino al 29 giugno del 16. Era appena scoppiata la prima guerra mondiale, molti genitori e padri erano stati richiamati al fronte. E quindi sono 36 alla fine e pressa poco la metà e metà erano maschi e femmine. E la maggior parte di questi non erano stanziali, ma erano figli di guitti, cioè delle compagnie di lavoratori, di braccianti che ogni anno si spostavano. Questi in particolare venivano da Anticoli Corrado e lei infatti li chiama molto affettuosamente i miei ciociaretti. E poi quando veniva l'estate se ne andavano, perché lì alle varie disgrazie c'era anche la palude e quindi la malaria. Dove si possono avere informazioni sul libro, in rete? Basta cercare il sito del Formichiere, che è l'editore. Il libro I Granci della Marana, Irene Bernasconi e la Casa dei Bambini di Palidoro, una presentazione a Roma giovedì 30 marzo 2023 alla Biblioteca Nazionale Centrale. Un saluto e un ringraziamento al curatore Elio Di Michele. Grazie a voi di nuovo per l'invitato, grazie. Eccoci all'agenda per gli appuntamenti della settimana, spettacoli teatrali soprattutto con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, eccoci tornati dopo una pausa di una settimana per cause di forza maggiore, anzi a questo punto diciamola proprio tutta, pause di forza maggiore. Andiamo a vedere cosa ci offre invece questa settimana, che parte come ormai spesso, insomma, d'abitudine, dal Teatro del Bell'Amore, che insomma che ci fa un bel recap settimanale di cosa c'è a teatro durante la settimana e noi lo sfruttiamo un po' per aprire la nostra fetta di trasmissione. Allora, per prima cosa, questa settimana, giovedì 30, butteranno ben due cose. L'una è Uno, Nessuno e Pirandello, ovviamente tratto dal teatro e le novelle del grande autore agrigentino Luigi Pirandello, e che appunto sarà al Tor Bell'Amore per 30 e 31 marzo, un viaggio all'interno del teatro pirandelliano, insomma, della compagnia Salvatore della Villa, che è anche colui che ne cura la regia e sta in scena sul palco. Mi sembra un po' importante come nome all'interno di questa compagnia. Stesso giorno, ma poi per restare fino a sabato 1 aprile, per i Sacchi di Sabbia, grande compagnia pisana, toscana, che porta in scena uno spettacolo progetto su Aristofane, con la commedia più antica del mondo, Il discorso sugli Acarnesi di Aristofane, ed è veramente considerata la commedia più antica del mondo. Un brillante accademico, sarà appunto Massimo Grigò sul palco, prova a rispondere nell'unica maniera possibile, continuare ad interrogare questo antico gioiello, insomma, della comicità. Gli Acarnesi di Aristofane non è più in repertorio da nessuna parte, nessuno lo mette più in scena, però il suo dispositivo comico, insomma, è ancora rabbioso, idealista. Aristofane è un autore che ha molto a che vedere con l'ipocrisia del mondo moderno, e quindi è importante che la compagnia Sacchi di Sabbia faccia questa indagine anche 2500 anni dopo. Insomma, la commedia continua a far sentire la propria voce. Per quanto riguarda invece i bambini, il 2 aprile nel pomeriggio un'emozione per Amica, c'è anche Gattanera Teatro che presenta questa rivisitazione di un classico Disney per ciò che riguarda appunto il teatro dedicato ai bambini, precisamente dai 4 anni in poi. Continuiamo dunque, perché al Teatro Parioli andiamo a vedere questa settimana un viaggio tra danza, poesia, musica, circo con Caterina Moti Sismondi alla regia, e sarà in scena dal 29 marzo al 2 aprile questo Gelsomina Dreams, appunto sul palco del Teatro Parioli. È un omaggio a Federico Fellini, insomma un viaggio onirico appunto che recupera il nome del personaggio Gelsomina della strada, appunto diretto da Federico Fellini, interpretato da Anthony Quinn e Giulietta Masina, se non vado errato, e con le musiche di Nino Rota che sicuramente alleggeranno in questa messa in scena. Quindi un viaggio all'interno dei sogni spendiniani al Teatro Parioli dal 29 marzo al 2 aprile. Continua invece la danza con Orbita, il programma di danza che insomma un po' sta in vari spazi romani, e questa settimana sarà il 31 marzo in Prima Nazionale con Los Ferros di Marcos Morau, Led Silhouette, sul palco del dono del Teatro Palladium, per uno spettacolo che vede di nuovo Marcos Morau a Roma, dove insomma aver portato già dei soli nei mesi precedenti. Il ritorno insieme alla compagnia Led Silhouette porta questa Prima Nazionale sul palco del Teatro Palladium ed evidenzia la crisi esistenziale dei nativi digitali, che sarà al centro della coreografia appunto di Marcos Morau. Nel dominio della tecnologia e dei nuovi media sicuramente le persone hanno vissuto processi di disumanizzazione, di isolamento, e si cerca proprio insomma di mettere in campo questa fragilità, mettere sotto indagine la fragilità. Andiamo anche a vedere, ecco, il 31 marzo c'è un'altra cosa molto interessante. All'Angelo Mai ci sarà Al Cosmo, ideata e creata da Fiorenza Menni, una lettura corale ad alta voce del libro di Porpora Marcasciano, Tra le rose e le viole. Porpora Marcasciano, scrittrice, storica, attivista transgender italiana, che in qualche modo cerca di narrare la presenza del corpo all'interno del pianeta. Ecco, questo poi fondamentalmente è il discorso, cercando di andare a creare delle connessioni tra il mondo animale, tra il verso animale e le parole. Molto interessante il processo. Al Cosmo di Fiorenza Menni per il 31 marzo all'Angelo Mai. Poi andiamo anche alla Fortezza Est, perché dal 30 marzo, che è giovedì, fino al 1 aprile, alla Fortezza Est arriva Ines, un monologo scritto, diretto e interpretato da Andrea Fabbi, che insomma, porta in scena questa dark comedy sugli ideali sconfitti, una metafora dell'essere umano predestinato al fallimento, e ne fa una lettura, diciamo, grottesca, ironica. In una festa disertata dagli invitati c'è la padrona di casa, Ines, sola in scena, ci racconta cosa si festeggerà quando gli ospiti arriveranno, ma poi chissà se questi ospiti arriveranno mai. Questo alla Fortezza Est, Andrea Fabbi, Ines, 30 marzo, 1 aprile. Poi al Teatro Lo Spazio, un testo diretto, interpretato da Gianni De Feo, scritto in realtà da Paolo Vanacore, Bambola, la storia di Nicola. Nicola sarà in scena dal 30 marzo al 2 aprile, appunto al Teatro Lo Spazio, racconta la strada della sua vita a partire dalla nascita negli anni 60, fino insomma ai giorni nostri in una periferia romana, rivendicando insomma le proprie scelte sessuali all'interno del mondo in cui sta vivendo, la frustrazione del mondo attorno a lui. Bambola sceglie la strada della prostituzione, veste abiti femminili, quindi si inserisce all'interno di questo dibattito, di questa narrazione, molto importante quindi da vedere. La storia di Nicola Bambola sarà in scena a Teatro dello Spazio 30 marzo, 2 aprile. Insisto con un po' di cosette, dunque a Roma arriva anche allo spazio 18B Happy Ending di Emanuela Rolla, che nasce da racconti di vita vera, dalle storie dei transgender di tutti i giorni, e per appunto non solo raccontare queste scene, ma insomma cercare di entrare all'interno delle storie toccanti, crude, di una transessuale non operata che vive la vita cercando di conquistarsi il diritto all'identità. Questo sarà in scena fino al 2 aprile allo spazio 18B. Per quanto riguarda invece il teatro, ecco, Ambra Iovinelli torna al Van Gogh Café, una commedia musicale che è già stata in scena qui a Roma, sarà in scena dal 30 marzo al 1 aprile e appunto cercando di ispirarsi, diretto da Andrea Ortis, la commedia, di ispirarsi alle opere del pittore, appunto, Vincent Van Gogh. Dunque, allora, al Teatro Vascello, finalmente, debutta dal 28 marzo al 2 aprile, David Copperfield, sketch comedy, un carosello dickensiano, quindi la riscrittura e l'adattamento drammaturgico fatto da Marco Isidori, della compagnia Marcino Marcidori, se famosa Mimosa, da Charles Dickens, appunto recuperando il fantastico, straordinario, famoso testo del David Copperfield. Siamo all'interno del romanzo ottocentesco, questa però è una compagnia un po' particolare perché Marcidori, cioè famosa Mimosa, fanno un lavoro molto diverso dalla riduzione letteraria di un testo così, ma insomma cercano di lavorare molto sul linguaggio, sull'immagine e dell'ambiguità, insomma, che porta alla drammatizzazione teatrale. Quindi questo lavoro parzialmente comico di sketch legati al David Copperfield è quello che ci interessa evidenziare dal 28 marzo al 2 aprile al Teatro Vascello. Poi ancora segnalo che al Teatro India, fatti vedere Teatro India, esprimiti, eccoli qua, benissimo, al Teatro India dal 29 marzo al 2 aprile, uno spettacolo che ho visto e che ho amato molto. Duncan Macmillan è l'autore di questo testo, però è di Duncan Macmillan con Johnny Donahue. Perché questo? Perché è uno spettacolo scritto da un autore, ma che un attore in qualche modo sulla scena codirige. Si tratta di Every Brilliant Thing, le cose per cui vale la pena vivere, firmato da Fabrizio Arcuri alla regia inizialmente e la coregia di Filippo Nigro, che poi ne è l'attore in scena. Uno spettacolo molto bello che appunto cerca in maniera brillante di narrare la storia di un ragazzo da quando bambino cerca di iniziare a mettere da parte tutte le emozioni, tutti i momenti che vale la pena conservare, in un grande quaderno, un grande elenco che però insomma è anche il grande elenco delle cose della vita, delle bellezze della vita. Lo fa per la propria madre e in qualche modo lo fa in scena anche per noi. Invito assolutamente ad andarlo a vedere al Teatro India dal 29 marzo al 2 aprile. Ultimo degli appuntamenti che segnalo, 1 e 2 aprile, uno spettacolo molto bello, vincitore anche di un premio UV ultimamente, Ashes di Muta Imago, un viaggio attraverso il suono, un racconto sonoro, ecco, mettiamola così, un racconto sonoro che in qualche modo sovrappone dei loop, voci e musica eseguite dal vivo, sia appunto da strumenti che attraverso la partitura vocale di quattro attori straordinari che vado a ricordare, sono Marco Cavalcoli, Ivan Graziano, Monica De Muru e Arianna Pozzoli. Pozzoli mi ucciderà se non ricordo l'accento, ma va bene, spero che ci abbia sentito con indulgenza. Ma appunto esce di Muta Imago, da non perdere, 1 e 2 aprile al Teatro Biblioteca Quarticciolo. E con questo è tutto, ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni.